rosso. Sì. No, io sto utilizzando quella grande, quindi dovrebbe... Questa è a posto. E me, Luchi, ho passato i gaffi? Sì, già. Sì, stamattina quando mi sono svegliato, deve essere... Dai, l'ho tolto con... non lo so, quando stavo dormendo. Mi sono svegliato, ma secondo me era il colpo. Sì, può sì, magari... involontariamente che ha tuntunato di mudà. Esatto, ma non i budi più, capita, ero gribendi. E va bene. Niente di nuovo, Franco, non è entrato, Tino, nuda? No, ce l'ho tutto il giorno quasi accesa stamattina, là. Qui l'ho spenta verso le 3. E l'ho riaccesa 10 minuti fa, poi ero facendo un po' di zapping sui canali, sul 10 c'era qualcuno, ma qualcuno lo sentivo bene in AM, ma qualcuno no, tipo Carlo lui ha detto che mi sentiva 9.5, 9.10, ma io no, a lui non lo sento. Poi c'era Claudio, lo sentivo, poi c'era uno di Viale Italia, che ha detto si è messo l'antenna fuori, non so che antenna ha messo, e niente, però dipende da come modulano, a volte li sento e a volte no, perché ti ripeto, Franco è più alto di me, quindi magari c'ha un raggio d'onda che magari passa qualche angolo, qualche punto di copertura. E io invece sono un po' più in basso e quindi magari rimango appena più chiuso. E perciò a trasmettere trasmetto, ma non li ricevo. Ah, fottitini, fregatene, va bene così. Magari averlo io il punto tuo, già. Se avevo due, se avevo stato io, chi vi guai? Guai. Comunque. Già va bene così, tanto per quello che c'è. Va bene così già per le quattro chiacchiere. Io dopo mi sposto dal 12 e me ne vado sul 22, che oggi c'è il coso di chiamata, c'è una prova di chiamate, e vediamo un po' cosa riesco a fare. Se ti vuoi spostare anche tu, magari ti attacchi l'amplificatore dopo le 9, ti metti a scaldare bene l'amplificatore e tanto si fa in tutte le gamme FM, AM e bande laterali. È giusto un canale di chiamata, poi magari se senti qualcuno ti dice dove spostarti, dai. Si fa tipo a tipo 27.555, però questa volta lo si fa entro i 40 canali stabiliti. E va bene, mi hanno contattato qualcuno da Ulbia, qualcuno da Zacchena, da Teldi, adesso vediamo un pochino cosa riesco a fare. Ehi, agappa, l'ho visto anche io, uno mi sembra da Ulbia, c'aveva un Galaxy Saturn ed era sul 22 o sul 20, ma non me la metto. E niente, e sempre comunque in queste frequenze qua. E vabbè, dai, magari poi se giro, sbircio e vediamo un po' cosa riusciamo a sentire. Quello della radio non l'hai sentito? No, non l'ho sentito già. Domani sera magari ti mando un messaggio e vediamo un pochino cosa mi dice. Non l'ho sentito, non l'ha già inteso, la verità l'avevo contattato io stamattina, però poi stavo facendo roba e non sono riuscito a smarcarmi un attimino. Ho acceso adesso io, poco fa, ero tutto giorno fuori. Eia, KK, come me, l'ho acceso, sarà 20 minuti, sono 20 minuti nel salone qua, stavo controllando quei canarini che non avevano un casino nido e niente, quindi ho acceso la radio, la radiolina, tutto qua, dai, tutto qua. Comunque già siamo qua, già siamo qua. Avame mangio due bistacchi. Sì, va bene, va bene. Io già prendo e vi faccio un attimino una cosa qua e poi mi sposto sul 22. Mi sposto sul 22 e c'ho il PRM comunque acceso, se vuoi chiamare chiamami dalla radiolina. Io mi sposto sul 22. Ok, cappa Roger, anche io ce l'ho accesa la radiolina, va bene, va bene, va bene, dai. Vediamo cosa c'è in frequenza. Andavè, a dopo allora, dai. Va bene, a dopo Gianni, a dopo, buon proseguo di serata. Sono a 446 dove sentiamo noi, dai anche. A dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao.